malapena riesco a mandar giù. Now body, welcome to the radio connection. Insieme a te, a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. Ben ritornati su Radio Sandonà, ben ritornati a Nowboarding. Arriva l'estate, Nowboarding c'è ancora, ma la stagione di Nowboarding sta per finire. Questa è la prima novità di questa puntata. Se facciamo i conti, ci manca questa, un'altra puntata e poi forse un best of o un meglio di. Questa era la prima novità. La seconda è che Squalo, tanto per cambiare, anzi Lorenzo, detto Squalo, tanto per cambiare, ha tirato il pacco e quindi ha abbandonato questa puntata. Al suo posto lo sostituisce alla grande David. Ciao David. Ciao a tutti. Come va? Alla grande, spero davvero di essere un valido sostituto di Squalo e fargli onore. Ma senz'altro, cioè tanto diciamo che il livello che dovresti raggiungere per eguagliarlo è abbastanza basso, quindi... Mi chiedevo Francesco, vai, dov'è che siamo oggi? Dov'è che andiamo? Con chi siamo? Oggi per la prima volta ritorniamo in un paese che abbiamo già visitato, e quindi ovvero la Spagna. Se l'altra volta eravamo stati a Jaén, quindi piccola cittadina, questa volta andiamo nella capitale, andiamo a Madrid, che tra l'altro in questi giorni sta vivendo un momento anche abbastanza singolare e importante. L'ospite dovresti conoscerlo tu meglio di me, giusto? Certamente sì, presentiamo quindi Silvia. Silvia è a Madrid. Ciao. Ciao, benvenuta. Ciao Silvia. Grazie. Come prima cosa ci viene da chiederti, cosa fai a Madrid, Silvia? Da quanto sei lì, allora, e per quanto pensi di rimanerci? Boh, forse per me ci rimarrei per parecchio tempo, però purtroppo io sono qua in Erasmus e la mia esperienza sta finendo e finirà alla fine di giugno. Ho già preso l'aereo per tornare, purtroppo. Sentiamo... Sono qua in Erasmus da... Sentiamo la voce stringersi in gola. Come? Sentiamo la tua voce così strozzarsi in gola. Sì, la lacrima è facile, infatti viaggio con dei fazzoletti onde evitare di bagnare il pavimento. No, a parte gli scherzi, sono qui da settembre e sono... Sì, è un Erasmus che dura 9 mesi, quindi si concluderà a giugno, però è stata una bellissima esperienza che se potessi vorrei far durare molto di più. Il 9 mesi è la durata maggiore per Erasmus o c'è anche l'anno? Non mi ricordo. No, io credo che sia la durata maggiore e poi volendo si può fare un prolungamento, però non viene retribuito. Ah, ok. Cioè ti riconoscono gli esami ma non ti pagano, non ti danno la borsa di studio. Perfetto. Ora ci chiediamo invece, perché proprio hai scelto Madrid, è una città veramente fantastica, anche io l'ho visitata 2 volte, Francesco anche, penso, immagino. In volata. Ci chiedevamo proprio questo. Perché la Spagna? Perché Madrid per fare un Erasmus? Beh, allora, innanzitutto io quando ho scelto la Spagna, lo Stato, perché mi piace, perché mi dà un'idea solare, di accoglienza, e poi ho scelto Madrid. Il punto è che, all'inizio volevo una cosa, non volevo staccarmi tanto dalla cultura italiana, cioè nel senso, gli spagnoli sono comunque gente mediterranea, quindi sempre calorosa. Certamente. E poi ho scelto Madrid perché volevo provare l'esperienza di vivere in una grande città. Io studio a Udine e sì, vivo vicino a Sondonà, in un paesino dimenticato da Dio, quindi non ho la più pallida idea di come sia vivere in una grande città, tantomeno in una capitale di Stato. Tra l'altro credo sia tipo deve essere la terza capitale in Europa o qualcosa del genere, quindi magari a volte non ci se ne ricorda, però è tra le maggiori capitali europee, insomma. E quindi, insomma, il fatto di proiettarti così in una metropoli, com'è stato? È stato bello, interessante soprattutto, perché qui la vita è molto più veloce. Cioè, io Io la concepisco molto più veloce di come vivo a casa, per esempio, innanzitutto per i trasporti, perché io abito sempre a Madrid in zona A, però comunque per raggiungere il centro ci metto 20 minuti in metro. E poi c'è un sacco di gente, c'è un sacco di cose da vedere, da fare, un sacco di iniziative, non ci si annoia mai fondamentalmente. Quindi Perché basta leggere il giornale e si trova non so, uno spettacolo a vedere, una mostra, ci sono i musei, c'è un sacco di vita, diciamo. in che zona vivi tu più o meno? Io vivo a est, a Pueblo Nuevo, è un barrio, un quartiere che si chiama Pueblo Nuevo e sì, come dicevo, è fuori dal centro, non ci arrivo a piedi in centro. Però è comunque, a me piace comunque perché è come un piccolo paesino dentro la città. Cioè io ho tutte le cose di cui ho bisogno e poi se voglio prendo la metro e vado in centro. Zona di studenti, lavoratori, un po' mista, com'è che zona è? No, sì, è una zona residenziale mista di lavoratori soprattutto. Sì. Passeggiate al mattino al Niente. parco a portare il cane, Sì, carrozzine. gran passeggiate, gran persone. Boh, ci sono tanti lavoratori che si svegliano presto, infatti la mattina la metro è sempre strapienissima. E poi ci sono spazi verdi, ma tutta Madrid è più o meno caratterizzata da spazi verdi. Cioè, se vuoi svagarti, trovi un posto sicuramente e sono anche ben tenuti, ben curati. Sì, beh, magari poi ci dai qualche consiglio per qualche parco o qualche zona. Certo. Andiamo Davide? quindi alla prima traccia, la canzone è Run Run dei Those Dancing Day. Che la scelta Silvia, come mai? Spagnoli non sono di sicuro questi. No, perché boh, mi piace un sacco questo genere di musica. E questo gruppo mi ha accompagnato per molto tempo nelle mie traversate metro e mi mette un sacco allegria in generale. Mettiamoci l'iPod, mettiamoci le cuffie ed entriamo in metro. Can feel the bouncing moss around me. Kill the flower and someone's garden, but I don't care. Entriamo in studio, erano i Those Dancing Days. Ci dicevi, Silvia, che sei lì in Erasmus. Erasmus, almeno secondo me, forse perché ho pochi amici e una ristretta cerchia di conoscenti, in medicina, un po' insolito, no? Beh, no, ti dirò. Quindi vuol dire che ho pochi amici, cioè... io. Non lo so, io ne conosco parecchi, boh, soprattutto a Udine sì, ogni anno ne partono una buona quantità di studenti che vanno in Erasmus per tutta Europa. E in medicina sì, ma non è tanto diverso dalle altre facoltà, sai. Alla fine quello che, cioè, facciamo, dobbiamo seguire le lezioni, e in più noi abbiamo anche la parte pratica, perché il secondo triennio di medicina di solito prevede una parte in cui devi frequentare la clinica, e quindi succede che cioè ogni giorno la mia giornata tipica era quella di svegliarmi presto, perché alle 8 iniziava lezione. E qui le lezioni sono strutturate in modo da fare un'ora di prima mattina, poi alle 10 si va in spogliatoio tutti insieme e ci si cambia, ci si mette il camice fondamentalmente e il fonendoscopio, e poi si sale, ci si distribuisce per i reparti a seconda naturalmente delle materie che si stanno seguendo. E è bello perché praticamente vedi un'altra realtà, un altro ospedale, come funziona anche, diciamo, l'aspetto lavorativo del fare il medico in un altro stato, perché io ho benissimo, cioè ho presente come funziona in Italia dalle mie esperienze, però in Spagna è una nuova esperienza, diciamo. Certo, ma quindi questa lezione alla mattina la fai direttamente in clinica? Allora, dipende da che lezioni sono. Ci sono certe lezioni che sono per tutti comuni e si fanno in facoltà. E la facoltà non è vicina agli ospedali, perché l'università che frequento io qua a Madrid è abbastanza grande, l'Autonoma di Madrid, e divide gli studenti in 4 ospedali disseminati nella città, naturalmente, e quindi alcune lezioni sono comuni per tutti, devono andare tutti in facoltà, altre invece sono tenute negli ospedali, proprio perché per permettere agli studenti di prima seguire lezione, poi ci si cambia e si va direttamente in reparto. E comunque le rotazioni in reparto durano dalle 3 ore e mezza più o meno, non di più, perché poi comunque c'è un'altra sessione di lezioni da mezzogiorno e mezzo alle 2:30, e poi si va tutti a mangiare, perché gli spagnoli mangiano molto tardi. Sì, ritmi dilatatissimi. E beh, però interessante come sistema. E dicevi che hai notato un po' delle differenze rispetto all'ambito ospedaliero italiano? Sì, quello che io ho notato subito è che a me qua i medici sembrano meno formali, ma un po' tutto l'ambiente, a partire dagli studenti stessi, che per esempio hanno il camice con magari scritto il proprio nome ricamato, o non so, si puntano delle spillette che sono divertenti, mettono allegria alla fine, perché l'ospedale di per sé non è un luogo molto allegro, quindi già vedere dei colori addosso agli studenti mette allegria, secondo me. In Italia, per quella che è la mia esperienza, sono tutti un po' più rigidini, un po' più attenti a come si vestono, anche attenti comunque a mantenere un certo rapporto con il paziente, una certa distanza. Qui invece ho visto alcuni dottori, me ne ricordo benissimo uno che era proprio disponibilissimo, ma in tutto e per tutto, soprattutto con la gente anziana che magari non ha dei problemi a relazionarsi con i camici bianchi, perché naturalmente mettono magari un po' di soggezione. E questo mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto vedere come alla fine quello che conta è la relazione umana, cioè il rapporto umano che si instaura, perché il paziente, cioè chiunque, si sente colato, diciamo. Davvero un'altra cultura, Francesco. Sì, un approccio abbastanza diverso, in effetti. Anche in Italia c'è questa realtà, però è molto meno... sviluppata, diciamo. Io non l'ho vista dappertutto. Ok. Quello che vogliamo chiederti, soprattutto in questo ambito ospedaliero, con la scuola, se hai avuto problemi con la lingua, perché ovviamente ci saranno termini più tecnici che altri. Con la lingua. Allora, la lingua, no, fin dall'inizio capire non è stato un problema, perché, appunto perché ci sono dei termini tecnici, i termini in medicina si riferiscono tanto all'anatomia, alle malattie, alle terapie, che alla fine sono comuni, cioè sono comuni con l'Italia e sono uguali un po' dappertutto. Con la lingua in generale, al di là della facoltà, ho avuto delle difficoltà a parlare, perché capire si capisce molto bene. Anche abbastanza presto. Però, sì, si fa abbastanza presto, anche perché magari usano dei termini spagnoli che non sono uguali a quelli italiani, però assomigliano o comunque ti ricordano un significato italiano che poi è quello spagnolo. Il punto è che questa parola non ti viene in mente quando devi parlare spagnolo, perché ti vengono in mente le parole più comuni italiane. E allora o fai la gnorri e ci metti la S alla fine della parola italiana e vedi la faccia dell'interlocutore com'è, oppure a me è capitato tante volte che per parlare, per descrivere una cosa, facevo una perifrasi immensa e poi scoprivo che la parola che dovevo dire era quella italiana. Con la S alla fine? No, ma anche senza S, quindi rimaneva una frustrazione. Ma quando fai questa esperienza in clinica, in ospedale, immagino sei direttamente a contatto con i pazienti, no? Sì, bisogna dire innanzitutto che ci sono due esperienze, perché c'è l'esperienza clinica, quella che si fa in reparto, e l'esperienza chirurgica, quella in cui devi cambiarti, ti metti la tutina verde, il pigiamino e vai in sala operatoria vera e propria. Quindi sono totalmente diverse, perché in quella chirurgica vai lì e guardi quello che riesci, e se trovi un chirurgo bravo che ti spiega tutto quello che sta facendo è molto interessante. La parte clinica di solito funziona che c'è un medico strutturato, che è il medico, cioè è il capo, diciamo, seguito da un residente, che è un dottore che ha preso la laurea, però si sta specializzando. Mm-hmm. Che fanno il giro dei letti, fanno il giro delle camere, e un po' come in Italia alla fine gli studenti seguono e magari si interessano, fanno delle domande al paziente o magari fanno degli esami obiettivi, come per esempio, non so, in neurologia magari ti permettono di fare l'esame neurologico del paziente, però fondamentalmente è un seguire come cagnolini il dottore, certo. e prendere nota. No, una buona esperienza l'ho avuta in psichiatria, dove avevo un residente molto bravo che mi spiegava tutto praticamente, e non era accompagnato dallo strutturato, quindi eravamo un po' più liberi, diciamo. Mm-hmm. E quindi potevamo parlare, fare delle conversazioni o comunque chiedere al paziente informazioni più liberamente, diciamo, perché poi dipende anche dalle condizioni in cui è la persona con cui parli. Certo. È arrivata l'ora della prossima canzone, scelta anche questa da te. C'è Erasmus nel titolo di questa canzone, che è Erasmus Borrachas di Francisco Nixon. Chi è Francisco Nixon? Io onestamente non lo conosco. Allora, neanche io lo conoscevo. Questo artista siamo andati a ascoltarlo insieme alla mia compagna di appartamento e un'altra Erasmus tedesca, in un locale spagnolo, che è un locale mezzo bar, diciamo mezzo teatro, in cui si esibiscono questi cantanti. E questo è un artista abbastanza famoso qui. La canzone si chiama Erasmus Borrachas, e Borrachas vuol dire ubriache, e quindi sì, è abbastanza esplicito, chiaro il significato, sì. E è divertente, perché quella sera che in cui l'abbiamo ascoltata ci siamo divertiti un sacco, perché prende abbastanza in giro Gli Erasmus Borrachas, esatto. Andiamo a sentire allora il buon Francisco che chitarra alla mano sa il fatto suo in quanto a Erasmus ubriache. Fu un passatempo, un capriccio poco más. Después amanecí, dormido en un portal. Erasmus borrachas, levanta la falda. Y tú vas corriendo el primero a mirarlas. Y bailamos sin hablar, oh no. Y nos vamos a escapar con clima cálido. We are having so much fun, oh no, reflejábamos la luz de nuestra bandera. Salí buscando un poco de conversación de este y por casualidad terminé en aquel café borrachas que llevan sandalias y tú vas corriendo a ver si te cansas y bailamos sin hablar, oh no, y nos vamos a escapar con clima cálido. We are having so much fun, oh no, reflejábamos la luz de nuestra bandera y bailamos sin hablar, oh no, y nos vamos a escapar con clima cálido. Bentornati a Now Boarding, questo appuntamento a Madrid. Silvia, ci siamo? Ci siamo. Benissimo, mi senti forte, vero? Allora, arriviamo alla parte meno interessante, forte però di sicuramente coinvolgerà molti di voi. Arriviamo alla descrizione di questa bellissima città. Com'è che si vive Madrid da studente? Quali sono i suoi luoghi, diciamo, che preferisci e che consiglieresti se qualcuno andrebbe, ecco, in un intervallo di tempo di una settimana, due? Allora, secondo me Madrid, Madrid è bellissima, sempre. Però in primavera sto dal meglio di sé, perché inizia la bella stagione, quindi iniziano i fiori sugli alberi, iniziano il sole, che le giornate si dilatano. Qui le giornate adesso sono lunghissime, considerate che il tramonto è verso le 10 di sera, cioè fino alle 10 c'è ancora luce, si vede benissimo. E le zone che consiglierei, adesso come adesso io vi direi Malasaña, che è un quartiere in pieno centro a Madrid, e è il cosiddetto quartiere che non dorme mai, perché di notte è il quartiere festaiolo per eccellenza, però anche di giorno è bellissimo perché è pieno di stradine piccole, ciottolati, piazzette, poi ci sono dei parchetti magari con le giostrine per i bambini, dove, cioè, ti viene proprio la voglia di prendere a fare una passeggiata magari con un amico. E oppure sederti in una panchina e osservare la gente o vedere i negozietti, perché ci sono un sacco di negozietti carini, negozietti vintage. Sì, Malasaña è al lato, diciamo, è vicinissimo alla Gran Via. La Gran Via sì, è bella, è bellissima, però è un po' caotica, diciamo, perché è sempre piena di macchine. Sì, sempre piena di macchine. Però diciamo che se si esce dalla metro di Gran Via e come visuali, se hanno i palazzoni imponenti di Gran Via, sicuramente si resta a bocca aperta. Almeno questa è stata la mia impressione. Ogni volta che esco dalla Gran Via, sinceramente, ho questa sensazione di wow, che meraviglia. E poi, secondo me, merita tantissimo il parco. Cioè, in generale, i parchi, tutti i parchi di Madrid. Però il Parco del Ritiro a me piace un sacco. Perché intanto è grandissimo. E poi ci sono varie parti. C'è la parte in cui c'è il lago, dove volendo puoi noleggiare la barchetta, andare con... Questo è stato il consiglio che mi ha dato Davide la scorsa settimana. Barchetta... Che divertentissimo. Sì, ma io ero da solo e c'erano solo andare con la barchetta. Ero da solo e c'erano solo o coppiette o amici, ma in gran parte coppiette, quindi prendermi una barchetta da solo non sarebbe stato il massimo. Dimmi pure, Silvia. Io ho visto una scena che con la pioggia erano tutti là tranquilli, cioè c'era il cielo grigio, però tutti tranquilli con la loro barchetta. Ha iniziato a piovere, cioè tre gocce, hai visto 2600 barchette spingersi verso un lato del laghetto. È stato abbastanza divertente. Comunque, buono, al di là del laghetto ci sono anche cioè, il Palazzo di Cristallo, che è bello. E poi c'è una parte che... è un po' più nascosto, diciamo, è dietro il laghetto, dove è più un giardino, diciamo, perché ci sono aiuole, ci sono i pavoni, ci sono degli archi con delle colonne in cui sale l'edera, e c'è anche la parte in cui tenevano gli animali, perché sì, tenevano gli animali fino al 1970, mi sembra, e quella è proprio zona relax e poesia, secondo me, perché è stupenda. Si fanno anche diverse manifestazioni, mi sembra che adesso ci sia la Fiera del Libro, può essere, al Parco del Ritiro. Sì, adesso c'è la Fiera del Libro e ci sono una cosa come 200 stand che vendono libri, e libri di tutti i tipi, perché si va, dalle grandi librerie come la Casa del Libro, a librerie più piccole e magari più indirizzate verso un tema, come, non so, la sociologia, la filosofia. E in più ci sono anche degli autori che proprio firmano i loro libri appena usciti. So che l'altro giorno c'era l'allenatore della nazionale, mi sembra, e comunque è bello perché con il sole si passeggia tranquillamente, è pieno di bar dove se vuoi ti fermi e prendi la tipica cagna, la birra, che è molto molto famosa qua, e passi un pomeriggio. Tornando verso il centro, quali sono, diciamo, le principali piazze o comunque musei che consiglieresti chi dovesse visitare Madrid? Allora, per quanto riguarda i musei, a me piace tanto Reina Sofia, perché c'è dentro arte più moderna rispetto al Prado. C'è naturalmente il famosissimo Guernica di Picasso, ma poi c'è anche Dalì, ci sono dei pittori minori... che sono comunque molto interessanti, e poi lì di fronte c'è la stazione dei treni di Atocha, che che è dentro una specie di vivaio con uno stagnetto che è molto molto carino da visitare. Le piazze, la mia piazza preferita, non so, cioè naturalmente c'è Plaza del Sol, che è bella, che in cui ci sono, c'è il punto zero, il punto in cui si inizia a misurare i chilometri. Sì, perché tipo Madrid è nel baricentro esatto della Spagna, mi sembra, no? Sì, esatto. E poi l'altra piazza più famosa è Plaza Mayor, che a me ricorda un po' San Marco, perché è una piazza chiusa. Quindi la prima volta che sono entrata in Plaza Mayor ho detto wow, sono a casa, e invece no. E questa piazza ha anche una bella storia, perché in questa piazza sono state eseguite tante esecuzioni, e al centro trionfa la statua a cavallo di Filippo II, mi sembra, adesso non vorrei dire una tonteria. Beh, c'è una statua con un cavallo, insomma. Sì, esatto, sono stato con un cavallo, bellissimo. E poi al lato, in parte c'è il mercato di San Miguel, che merita tantissimo. Ecco Silvia, ti chiediamo, com'è che si vive a Madrid? A Madrid si vive bene, Allora, a partire dal costo della vita, cioè nel senso gli affitti sono alti o comunque più alti di come per esempio ero abituata io a Udine, ovviamente. Però per quanto riguarda, non so, la spesa al supermercato è più economica rispetto all'Italia. E anche il fatto, la questione che se esci, magari vai di tapas, esci la sera e al posto di cenare con un pasto, non so, al ristorante o una pizza, ti prendi una cosa da bere e ti portano insieme da mangiare. E poi la vita qua a me sembra più dilatata nel tempo, perché sì, come dicevo prima, a parte mangiare dopo, qui proprio tutto inizia dopo, cioè i negozi aprono alle 10 e poi chiudono alle 2 e riaprono alle 5. E quindi viene tutto spostato in avanti. Nonostante sia una metropoli, ha comunque mantenuto i ritmi e le peculiarità spagnole da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Assolutamente, poi dipende da dove stai, perché mi raccontava una mia amica che nelle famigliole magari i ritmi sono più vicini a quelli italiani, diciamo. Non dico che mangiano a mezzogiorno e mezzo, all'una, però non mangiano neanche alle 4:30, come può succedere benissimo qua, che si pranzi alle 4:30 di pomeriggio e si ceni magari, non so, a mezzanotte. Costa un po' abituarci, sì, però una volta preso il ritmo si sta molto bene. Arriviamo alla terza traccia di questo appuntamento, la canzone è Friday I'm in Love dei Cure. Andiamo a sentirla. Stay in bed on Thursday. What? pausa Silvia messaggiava, sentavamo le sue dita sulla tastiera, indice dell'interessamento che sta provando verso di noi. Beccata. Sto scherzando. Silvia, sei stata in Piazza in Puerta del Sol ultimamente? Sì, ci sono stata proprio l'altra sera. Quindi l'altra notte. Sei stata in questo momento in quello che è il cuore di Madrid in pratica e della Spagna. Sì, sì, sì, veramente. Cioè, ci sono stata diverse volte. Diciamo che ho visto l'inizio, in cui c'era la Plaza del Sol piena di gente, pienissima di gente. La prima volta che ci sono stata era notte, era abbastanza tardi, e la piazza era piena di sacchi a pelo e gente che dormiva, gente che stava lì, parlava, giocava a carte. Vuoi spiegarci un po', allora, così introduciamo un po' l'argomento, quindi la storia dell'Indignados, cosa sta succedendo? Sì. Praticamente è successo che dal 15 maggio la Piazza del Sole è stata presa d'assalto, però ci sono state delle persone, questi indignados, che sono stati chiamati così poi dai media alla fine, che hanno deciso di rimanere là a dormire per la prima volta per una notte. E poi questo movimento si è allargato. Allora, io so che la prima notte che si sono fermati a dormire sono stati cacciati poi alle 6 della mattina dalla polizia in malo modo, e questo non ha fatto altro che fomentare la protesta, perché all'inizio era gente comune che si lamentava contro le banche, contro il governo e per la crisi che coinvolge anche tutta Europa alla fine. Sì, sostanzialmente, giusto, loro, correggimi se sbaglio, loro dicono, si lamentano per la disoccupazione, che è giovanile in Spagna, mi sembra sia il 45%, no? Mm-hmm. Per la crisi, e dicono sostanzialmente: ve la siete creata questa crisi, voi politici e voi banche, pagatevela, basta con i privilegi per i politici, basta con la corruzione in politica, e sostanzialmente questo, no? Quello che stanno esponendo questi, sì, manifestanti, no? Sì, esatto. All'inizio era proprio una manifestazione contro le banche e contro proprio i partiti, cioè il popolo non si sente rappresentato dai partiti alla fine, perché ci sono due partiti importanti, che sono il Partito Socialista e il Partito Popolare, che formano una classe a sé, praticamente, senza rispecchiare quelle che sono le esigenze della gente. Infatti qua ci sono un sacco di giovani senza lavoro, e poi c'è un sacco di gente che magari non ce la fa pagare il mutuo, e quindi all'inizio è stato proprio questo a muovere gli animi, diciamo, e a far ritrovare questa gente in piazza. Poi la cosa è stata appunto fomentata dalla polizia, che senza una ragione concreta li ha cacciati anche in malo modo, con misure antisommossa e con abuso di autorità. È questo fondamentalmente che gli indignados non accettano, che la polizia ha abusato. Uh-huh. E grazie soprattutto a Twitter la notizia si è propagata, e in una maniera così veloce che il giorno dopo, tipo il 16 maggio o il 17, erano in un sacco a Puerta del Sol, e è da lì che è iniziato poi tutta la protesta. E a me è piaciuto molto vedere, cioè seguire questa cosa, perché alla fine è stata una cosa pacifica. Loro volevano sì ribellarsi, ma in una maniera pacifica. Infatti all'inizio era proibito l'alcol in Plaza del Sol. Sì, anche ci sono prendevano molti misure, prendevano delle misure affinché la polizia non potesse attaccarli, perché non ne aveva la ragione. Tentavano di non rendere politico tutta questa manifestazione, e è stata fatta bene per me, perché alla fine non sono successi incidenti a Madrid, non sono successi incidenti gravi. E poi si sono organizzati molto bene perché col passare dei giorni poi si andavano formando dei comitati e ogni comitato era specializzato in un determinato argomento o in un aspetto del sociale. Per esempio c'è e c'è tuttora in Plaza del Sol c'è un aiuto, una consulenza legale. Naturalmente gratuita, oppure c'è una bancarella, un stage dove ci sono l'aiuto e la protezione per gli immigrati che non hanno i documenti senza carte, e poi c'è la libreria. Io sono passata l'altro giorno, adesso la cosa si è molto rimarginata, nel senso che Plaza del Sol non è più piena di un mare di gente, di un mare di persone, perché è stata distribuita in tutta la città. Si sono formati cioè hanno deciso di fare delle riunioni per ogni barrio, per ogni quartiere di Madrid, e quindi la gente si è un po' dispersa. Però tuttora in Plaza del Sol c'è una specie di accampamento, un tendone, che è diviso in vari settori e ogni settore ha la sua Peculiarità. sì, ha la sua peculiarità, Qui esatto. si fa informazione E anche, no? si fa informazione, esatto, e durante il giorno, se si passa di giorno, si vede proprio una componente trasversale della popolazione, perché vedi dall'anziano alla casalinga al giovane che non ha lavoro. E sì, è interessante vedere, ma è interessante soprattutto secondo me vedere come questa cosa si abbia preso piede tanto velocemente grazie a Twitter, cioè grazie a un mezzo di comunicazione che non sono i media televisivi, che poi possono essere anche influenzati e possono influenzare la gente, mentre Twitter è una cosa, diciamo, reale, cioè in tempo reale chiunque può pubblicare uno status e rende partecipi un sacco di persone. Sì, E questo infatti implica. tra i riferimenti che si possono cercare, se qualcuno volesse un po' informarsi, cosa c'è, Spanish Revolution, giusto, oppure Toma la Plaza, no? Sì, esatto. E boh, secondo me è interessante anche perché una persona che magari vorrebbe saperne di più, però non ha la voglia di informarsi o comunque di leggere mille giornali, basta che abbia un link su Twitter e viene aggiornato in tempo reale, diciamo. Certo, e ti E faccio questa una. Sì, cosa. abbiamo un po' di ritardo, mi senti con qualche secondo di ritardo. Comunque, ti faccio una domanda. Della tua impressione, cosa ne pensa la gente? Nel senso, io ero lì la scorsa settimana e uno degli oggetti all'ordine del giorno, nell'assemblea che credo ci sia tutti i giorni, verso le 19, verso le 20, c'era appunto produrre un comunicato per invitare le autorità cittadine a non ascoltare le pressioni che stanno venendo dai commercianti per sgombrare la piazza, appunto. Sì, diciamo che c'è un po' sì, disagio, ma io penso sia normale alla fine. E poi, secondo me, da quello che ho capito, magari ascoltando anche quello che dice il mio coinquilino, che è abbastanza coinvolto, è che non bisogna ascoltare i media, cioè la televisione tende a distorcere un po' la realtà o magari far passare un messaggio che non è vero, per negativizzare tutto il movimento, tutta questa manifestazione e quindi far sì che poco a poco vada morendo, diciamo. Che tra l'altro non è un movimento solamente di Madrid, ma si è esteso tutta la Spagna. Esatto, a tutta la Spagna e a tutta Europa, perché Sì. questo movimento adesso, la piattaforma Democracia Realia, adesso tenta di coinvolgere tutta Europa. So che in Italia, ci sono dei movimenti che sono partiti a Firenze, a Bologna, e comunque anche per esempio l'ultima iniziativa era appunto una marcia che vogliono fare in Spagna, però vogliono coinvolgere, cioè vogliono globalizzare l'Europa, secondo me, alla fine, in questo senso. E quindi questa marcia, in cosa consiste? Cioè, si sa già qualcosa? Io ho letto di sfuggita stamattina e mi pare che vogliono fare una marcia da Barcellona fino a Madrid che duri un mese e che passi per tutti i pueblos, i paesini piccoli, appunto continuando questa protesta contro il governo e contro la classe politica. Sì, tra l'altro, ok, queste erano le battaglie principali, però andando a vedere quello che di fatto è il villaggio in piazza, si vede che poi ognuno porta avanti anche delle micro battaglie personali che riguardano l'ambientalismo, il riciclo, la parità tra i sessi, e quindi sì, non c'è solo l'indignazione verso la classe politica, almeno a me un po' da esterno questo è sembrato, no? Sì, cioè per esempio, non so se hai visto, c'è l'orto, hanno fatto l'orto, poi sì, c'è questa cosa del riciclaggio, e comunque adesso, tuttora, ad ogni assemblea vengono fuori delle proposte, che sì, prendono un po' tutti i campi in cui c'è malcontento. Sì. Tra l'altro l'assemblea credo sia il momento più bello, cioè anche più partecipato, dove mi sembra gente comune arriva lì e se ne sta lì un'ora, insomma, e discute, partecipa, anche con un sistema abbastanza simpatico nel quale tu con le mani puoi esprimere se sei d'accordo o meno facendo dei gesti, insomma, codificati, non so se li hai visti. Sì, no, non ho visto, non sono mai stata a un'assemblea, però sì, sempre il mio coinquilino mi diceva che appunto sì, è molto partecipata, sono molto partecipate e se tu hai un'idea da proporre, puoi liberamente esprimerla e vedere cosa ne pensano gli altri, cioè è una cosa libera, Sì. senza nessuna vergogna o senza nessun problema. Certo, o Di limite. esprimere, di esprimersi. Bella. Davide, potremmo continuare per ore, e invece il cronometro continua inesorabile la sua corsa, quindi andiamo con la prossima canzone. Manu Chao, cantante, artista, insomma, non proprio spagnolo, origini spagnole, ma lui è francese, qualcosa del genere. Abbiamo scelto Otro Mundo. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: Calavera no llora. Serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca, pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata, siempre toca llegar. Calavera no llora, Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Now boarding a Madrid. Cara Silvia, arriviamo adesso al punto più coinvolgente, che è quello del divertimento madrileno. Quali sono i locali? Com'è che ci si diverte a Madrid? Cos'è che si può fare? Cos'è un giovane, in che modo, diciamo, può passare il suo tempo libero? In compagnia, da solo? Qua ci sono tantissime cose da poter proporre. Dipende anche da cosa vuole fare uno. Perché se vuole andare in discoteca ce ne sono parecchie. Se vuole invece stare più tranquillo in un locale, ci sono tantissimi baretti tipici, particolari, in cui magari si esce a fare l'aperitivo, che qua alla fine sono tapas, e si fanno verso le 9:30 di sera, così si esce con gli amici, si va a prendere una cagna o un tinto de verano, che è praticamente vino rosso con gassosa. E la particolarità delle tapas è che oltre alla bibita, alla cosa da bere, ti portano da mangiare gratuitamente, e a seconda del locale in cui vai te ne portano più o meno. Più Io o meno quintali. Conosco... Sì, più o meno quintali. Io so di posti in cui vai solamente a bere, perché sai benissimo che con quello che oltre a bere ceni sicuramente. Spendendo poco, perché vogliamo la puoi lista. Spendere. Oddio, ci sono i più famosi, che sono in assoluto quelli che ti portano più da mangiare, che sono per esempio il Tigre, che a me non piace tantissimo perché è un posto strafrequentato da Erasmus e sempre pieno di gente, che in cui manca l'ossigeno. Però con una birra ti portano tantissime cose da mangiare. Qui le tapas sono fatte prevalentemente di cose fritte, quindi pesciolini fritti, polpi fritti, patatine fritte o al forno, ma più fritte. Poi c'hanno il salame, le uova fritte naturalmente. E poi c'è per esempio un altro, è la Paloma Blanca, dove ti puoi sedere, perché al Tigre non puoi sederti, sei schiacciato come una sardina, mentre alla Paloma Blanca, alla Blanca Paloma, che dir si voglia, è un posto dove ci si siede e con una cosa da bere ti portano come 5 piattini pieni di tapas da mangiare. Poi se uno vuole fare un po' più raffinato l'intellettualoide, ci sono altri posti carini. Tipo, ma non è il nostro caso. Non è il nostro caso. Andando al sodo invece, l'altro fulcro, ma l'altro evento. L'altra bevanda. Il botellon. State parlando del botellon? Esattamente. No. Il botellon è una cosa che in Italia non conosciamo, anzi che la prima volta che ho visto in Italia, che la facevano degli Erasmus spagnoli appunto in piazza a Udine, io l'ho interpretata malissimo, a me sembravano un gruppo di giovani dediti all'alcol, un'immagine bruttissima che invece non è. È praticamente un ritrovarsi fra amici in una piazza o in un parco, dovunque si voglia, e bere. Di solito ci si porta magari una lattina di birra e niente, si parla tranquillamente. Di solito qua ne organizzano tantissimi al Tempio di Debo, che è un tempio egizio vicino al Palazzo Real, e il posto è molto carino perché è un parco con questo tempio e un laghetto, e c'è veramente un sacco di gente che si ritrova, soprattutto adesso con l'estate, con le serate calde, con le giornate che si allungano, un sacco di gente, Erasmus, non Erasmus, che si trova lì e è un buonissimo modo per conoscere persone, conoscere nuova gente. È davvero una cosa che mi ha colpito, quello di vedere tanta gente in piazza, in giro per le vie, Sì. comunque che vivono la città, ecco, non sono rinchiusi nei locali, è una cosa che No. piace. Anche se, per esempio, il quartiere del Botteghione è la Latina, perché soprattutto di domenica pomeriggio la Latina si trasforma in una sagra piena di persone, pienissima di persone sedute nelle piazze o per la strada. C'è veramente un sacco di gente che beve, se la racconta. Poi qui di solito mentre fanno bottiglione mangiano pipas, che sono semi di girasole. Quali sono i semi invece che ti fanno E morire? Sono quelli di quindi soia, c'è questo giusto? quelli con le Escherichia coli. No, quali sono quegli altri semi che in questi giorni ti fanno morire? Quelli di soia? So che c'è di posto questa emergenza di qualche seme che se lo mangi, che prima doveva essere il cetriolo, poi in realtà sono degli altri semi, non so bene. Ah sì, no, io oggi sul giornale ho letto che i tedeschi sospettano la soia, per quello che ti ho Eccoli là, detto allora, sono quelli. Vabbè, la soia. Sì, ma insomma. fra l'altro non toccare i cetrioli agli spagnoli, che si arrabbiano tantissimo, perché sono campanilisti in una maniera che non potete immaginare. Quindi Colpiti non proprio al cuore. toccategli i cetrioli. Bene, siamo Sì. veramente in chiusura, giusto il tempo per dare due contatti e l'indirizzo e il numero di telefono di Silvia, visto che è disposta a farci da guida turistica per tapas e quant'altro. Se ci volete scrivere info.bandieragialla@gmail.com oppure il nostro blog nowboardingrsd.wordpress.com, li trovate i link per scaricarvi il podcast o ascoltarvi la puntata in streaming. Il sito della radio www.radiosandona.it. Se siete invece dei fedelissimi dell'FM, sui 102 e 200 potete ascoltarci tutti i mercoledì dalle 21 alle 22. Bene Silvia, bene David. Bene, appuntamento al prossimo Il mercoledì. Ecco. prossimo mercoledì Lorenzo non lo faremo più venire. Vai così scalzato. L'ultimo pezzo, sempre scelto da te, o meglio, tu sei consigliato il gruppo, gli Arabe De Palo, noi abbiamo messo la canzone che depende. Ci hai detto che c'era un concerto gratuito loro recentemente. Sì, in occasione della Fiera di San Isidro, che è il patrono di Madrid, c'è stato un concerto gratuito in Plaza de España e a me è piaciuto tantissimo, è stato proprio bello. Bene, ci lasciamo allora con gli Arabe De Palo. Silvia, grazie mille, buon rientro in Italia, visto che sei agli sgoccioli, insomma. Col Grazie. fazzoletto. Ciao. Ciao a tutti, ci Un vediamo il saluto. prossimo mercoledì per la penultima o ultima, vedremo, puntata di Nowboarding. Ciao a tutti. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja.